Sì, un aggiornamento dalla striscia di Gaza. E qui oramai i bombardamenti continuano giorno e notte e il numero dei feriti e dei morti sta aumentando. Solo nella giornata di ieri, da un aggiornamento del Ministro della Salute, solo nella giornata di ieri ci sono stati più di 500 morti. L'aggiornamento che è arrivato e parla oramai di 5.180 morti, di cui 2.100 sono bambini e i feriti oramai sono più di 16.000. Ecco, questa è la situazione per quanto riguarda, diciamo così, i numeri che ci fanno però capire cosa sta arrivando e cosa sta succedendo qui nella striscia di Gaza, una completa distruzione delle case e delle vite delle persone. Il Ministero della Salute ieri, aggiornando, ha mandato una lunga lista di necessità, tra cui appunto i farmaci, medicinali, attrezzature per poter curare i feriti e denunciando il fatto che gli aiuti umanitari che sono entrati purtroppo, no, innanzitutto sono insufficienti, ma Israele impedisce di farli arrivare a nord della striscia di Gaza e a Gaza City, quindi negli ospedali che ancora stanno funzionando. Vale la pena ricordare che ci sono oramai 12 ospedali che sono stati resi inagibili per bombardamenti o per parziali distruzioni e più di 30 centri di servizi sanitari che sono anche questi inagibili, sia per i bombardamenti che hanno subito, ma anche per la mancanza di medicinali e soprattutto di gasolio che serve appunto per far funzionare tutta la struttura. Il Ministero della Salute denuncia questo collasso delle strutture sanitarie e contemporaneamente però scrive che le porte sono aperte degli ospedali, ma dice che questo non significa che noi siamo in grado di poter prendere in cura i feriti che arrivano. Ecco, questa dichiarazione veramente dà il senso della pesantezza e anche della forte responsabilità che gli operatori sanitari qui sentono. Ci dicono dagli ospedali che molto spesso i feriti che avrebbero bisogno di essere subito operati invece entrano in sala operatoria dopo alcuni giorni. E hanno bisogno di medici specializzati che arrivino anche dall'esterno e il Ministero della Salute in questo senso ha fatto una richiesta specifica, evidenziando ancora una volta la tipologia delle ferite con le quali si trovano a dover lavorare e curare, in particolare delle bruciature molto, molto profonde e difficili da trattare. E come già è stato detto e scritto anche denunciato da Amnesty International, è stato evidenziato ancora una volta l'utilizzo del fosforo bianco durante gli attacchi. Ecco, la situazione per quanto riguarda invece le scuole dell'UNRWA che stanno accogliendo la popolazione. Qui oramai si parla di 1.400.000 persone che hanno dovuto abbandonare le loro case, quindi evacuare. Alcuni hanno trovato sistemazione circa 600.000 nelle scuole dell'UNRWA, una parte si sono sistemati invece nelle scuole del governo. E certamente questo e altri si sono invece sistemati presso parenti o familiari. E ovviamente questo sovraffollamento nei centri, come ha dichiarato il Ministro della Salute, portano un grande rischio di epidemie. Sono già numerosi casi di diarrea, di intossicazione alimentare, di scabbia e soprattutto di infezioni bronchiali. Quindi la situazione sta, sotto l'aspetto igienico-sanitario, sta pesantemente aggravandosi. E, oltretutto, in questi centri di accoglienza, definiamoli così, che però sono dei ripari del momento, mancano totalmente i servizi igienici, cioè non ce ne sono il numero adeguato per la popolazione che è arrivata. E soprattutto si sta utilizzando in questi giorni l'acqua che non è ovviamente acqua pulita perché non essendoci l'elettricità anche il sistema di depurazione non sta funzionando. E la richiesta che viene fatta è quella di far entrare al più presto tutti i convogli umanitari e di poter distribuire sia i medicinali che i generi alimentari in tutta la striscia di Gaza e non voler solo strangolare, come sta facendo Israele, il nord della striscia di Gaza, cioè Betlaia, Betanun e Jabalia e Gaza City, che sono appunto quei governorati dove Israele ha dichiarato di non voler far arrivare gli aiuti umanitari. E, inoltre sono entrati, come ho detto, generi alimentari e medicinali che comunque non sono sufficienti a prendersi in carico sia i feriti, ma soprattutto e anche i malati cronici. Abbiamo gente in dialisi, abbiamo bambini nelle incubatrici che sono tutti a rischio di vita perché non è possibile mantenere le terapie di cui avrebbero bisogno. Ecco, però insieme a questi aiuti non è stato permesso far entrare il gasolio, che è una delle richieste che Hamas ha fatto in questi giorni. Aveva anche ipotizzato un ulteriore scambio di ostaggi, si parlava di 50 ostaggi in cambio appunto di poter avere del gasolio. In realtà poi lo scambio è avvenuto solo per ulteriori due persone, ma non Israele, non vuole permettere appunto che ci sia la possibilità di far entrare questi beni necessari per la sopravvivenza a questo punto veramente della popolazione di Gaza. E ieri nel pomeriggio un aereo ha sorvolato anche il posto dove siamo noi, che siamo sempre appunto nel campo dell'UNRWA a Rafah, e hanno lanciato dei volantini, e di questi volantini scritti in lingua araba chiedeva alla popolazione di fornire informazioni sulla locazione degli ostaggi, cioè di dove Hamas sta tenendo in ostaggio, i luoghi dove sono in ostaggio, diciamo così, le persone che sono state sequestrate nell'azione del 7 di ottobre. Ovviamente, queste informazioni veniva scritto dietro una buona ricompensa, indicando i numeri di telefono, WhatsApp e quant'altro per dare le informazioni. La reazione che qui nel campo, quando hanno visto i volantini, hanno stracciato questi inviti di Israele. Ecco, noi per quanto riguarda la nostra situazione siamo sempre in attesa di avere un'idea più che altro, un'indicazione di quando potremo muoverci verso Rafah per passare il border, però a tutt'oggi non ci sono ancora indicazioni precise. Si ipotizzava che in questi giorni fosse possibile raggiungere Rafah e quindi passare il border, però la cosa sembra complicarsi sempre più. Vale la pena ricordare che tra l'altro il border di Rafah al border di Rafah si trovano centinaia di persone che sono in attesa di poter uscire per andare in Egitto da parenti e cercare di sopravvivere a questo sterminio, perché di questo stiamo parlando. E inoltre ci sono parecchie ambulanze che avrebbero la necessità di trasferire molti feriti, in Egitto per le cure, perché qui gli ospedali oramai sono al collasso. Ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, il Nasser Hospital di Khan Yunis è stato bombardato, ci sono stati 6 morti. Quindi i crimini di Israele continuano, mi pare anche di capire, in un silenzio assoluto della comunità internazionale. Io ancora una volta devo constatare che, a parte le informazioni che possono arrivare attraverso Al Jazeera, tra l'altro nei giorni scorsi un giornalista palestinese è stato assassinato, però qui di giornalisti, di reporter, fotografi ancora non si vede nessuno. ci dicono che sono al border di Rafah in attesa del permesso di ingresso da parte di Israele. Ecco, io credo che sarebbe cosa giusta che l'ordine dei giornalisti facesse pressione affinché l'informazione possa in qualche maniera circolare e che reporter e addetti all'informazione di qualsiasi parte. L'importante è che ci sia un'informazione, perché una volta che si entra si è in grado anche di documentare fotograficamente quello che è avvenuto, come sta vivendo la popolazione e la condizione, soprattutto in cui stanno operando i medici negli ospedali.